Europa 24. Ancora un saluto da Gigi Donelli. Dunque, Europa che riparte proprio dalla questione Merkel-Draghi, Draghi-Merkel, anzi come ha detto appunto Stefan Seibert, quindi il portavoce del cancelliere tedesco, sulla telefonata tra i leader trapelata attraverso le pagine del Der Spiegel. Allora sentiamo il servizio. Non è stata lei a chiamare lui, ma lui a chiamare lei. Come nelle migliori schermaglie amorose, Angela Merkel smentisce questa mattina di aver alzato per prima la cornetta per comporre il numero di Francoforte, quello del governatore della BCE Mario Draghi. È stato il presidente della BCE a chiamare lei, ha detto il portavoce della cancelliera Stefan Seiberg oggi a Berlino, confermando la telefonata di cui Der Spiegel aveva riportato nel weekend. Sulle speculazioni circa i contenuti del colloquio, Seiberg ha detto che non hanno nulla a che fare con la verità. Il settimanale tedesco Der Spiegel aveva scritto che la cancelliera aveva chiesto spiegazioni a Draghi sulle parole pronunciate dal governatore a Jackson Hole qualche giorno fa. Draghi, davanti ai banchieri americani, si era spinto a dire che le politiche europee devono utilizzare la flessibilità disponibile all'interno delle regole per spingere la crescita, una posizione pericolosamente vicina a quella del presidente francese François Hollande, che tra l'altro oggi Draghi vede a Parigi, e sostenuta pure dall'Italia di Matteo Renzi, ma lontana anni luce dall'austerity difesa e sostenuta dalla Germania di Angela Merkel. Certo, una certa tensione può essere confermata dalle esternazioni pubbliche dello stesso ministro delle finanze tedesco Schauble, il quale ieri ha ricordato a Draghi che la BCE deve assicurare la stabilità monetaria, non finanziare gli stati. Nella partita che si sta giocando fra Berlino, Roma e Parigi, insomma, la Germania chiede a Draghi di limitarsi a fare l'arbitro e sottolinea al resto del mondo che non è stata lei la prima a chiamare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'altra notizia, diciamo, europea importante del fine settimana è stata ovviamente quella che riguarda la copertura dei cosiddetti top job. Da una parte Donald Tusk, dall'altro il polacco, il premier polacco Donald Tusk, e dall'altra Federica Mogherini, che diventa dunque capo della diplomazia europea, o meglio diventerà con l'avvicendarsi formale in novembre. Questa mattina molti commenti internazionali, vi segnalo tra gli altri Le Monde che dice una vittoria per Renzi, e sempre in Francia Figaro che dice, dopo avere diciamo opposto abbastanza esplicitamente questa nomina, dice: negli ultimi tempi l'atteggiamento dell'italiana sembra mostrare che è sulla buona strada. Intanto il profilo del ministro degli esteri, ora commissaria di quella che viene definita già commissaria della generazione Erasmus, ci viene raccontata da Cristina Carpinelli. Classe 1973, romana, due figlie, una laurea in scienze politiche alla Sapienza di Roma con una tesi sul rapporto tra religione e politica nell'Islam, frutto dell'Erasmus in Francia. È lì che ha imparato il francese, racconterà Federica Mogherini, che fa parte della generazione Erasmus, così viene definita. Era stata definita troppo giovane, non abbastanza autorevole, è lei stessa a difendersi. Sono 20 anni che mi occupo di affari esteri ed europei, ho un po' di esperienza istituzionale. Un percorso, il suo, di impegno politico che inizia nel 96 quando si iscrive alla sinistra giovanile e nel 2001 entra nel Consiglio Nazionale di Esse. 2 anni dopo comincia a lavorare al Dipartimento Esteri come coordinatrice e poi come responsabile delle relazioni internazionali. Nell'agosto del 2013 viene chiamata alla guida della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della NATO, membro dell'Istituto Affari Internazionali, del Consiglio per le relazioni fra Italia e Stati Uniti e del Network Europeo per il Disarmo e la Non Proliferazione Nucleare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per adesso, naturalmente Europa 24 torna in versione sera questa sera alle 21, noi ci risentiamo domani, un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.